Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti. Si aprono i cancelli e poi il portone di questa casa non è un albergo. Ci accomodiamo perché è arrivato il momento, come ogni settimana, di parlare di noi, dei nostri figli. Piccoli e grandi problemi. Qua accanto a noi, per darci manforte, per illuminarci, il nostro inquilino Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi una puntata con due temi associati alla voglia e anche alla fatica di crescere, due facce della stessa medaglia a volte. Sì, due temi che a volte entrano nelle case quando meno te l'aspetti. Un figlio che vuole partire per un programma Erasmus e andare in un'università straniera e quindi lascia i genitori con molte domande, molte ansie, probabilmente anche molte speranze, e invece una brutta storia di bullismo. L'ascolteremo a fine trasmissione e ci serve a fare un po' da gancio anche per la prossima settimana, quando vogliamo proprio le vostre storie di famiglia legate al tema del bullismo. Se ne avete, se volete che la vostra storia diventi protagonista del nostro programma, cominciate a scrivere alla nostra email essere e benessere@radio24.it e voi con la vostra storia diventerete i protagonisti della puntata di sabato prossimo. Allora Alberto, direi che possiamo andare per ordine e inizierei ad affrontare il primo caso. Sentiamo la lettera. Nostra figlia Elisabetta ha 21 anni e ci ha detto che vuole fare un semestre in un'università straniera con il programma Erasmus. La sua richiesta ci ha preso in contropiede, perché Elisabetta è una ragazza molto riservata, che non si è mai allontanata da sola dalla famiglia per più di un fine settimana o per la classica gita scolastica del liceo. Ora invece chiede di trascorrere alcuni mesi all'estero. Da una parte siamo contenti che voglia rendersi autonoma, dall'altra siamo spaventati, perché ci chiediamo se ce la farà a sostenere le fatiche, soprattutto quelle emotive, di una solitudine prolungata. E poi, l'Erasmus sarà davvero utile per il suo futuro professionale? Alberto, dubbi legittimi, paure, un po' di ansie, tra l'altro anche tu hai fatto un Erasmus, no? E non c'era ancora l'Erasmus ai miei tempi, però io sono andato all'estero dopo aver conseguito la laurea in medicina. Esperienza positiva? Molto, decisa, mi ha cambiato la vita. Fondamentale? Ma molto importante. Allora, per darci una mano, abbiamo in linea con noi Loredana Oliva, che ha pubblicato per Sperling un libro che fa proprio al caso nostro, del nostro ascoltatore. Io invece studio all'estero, dal liceo al master, le città, le università, i paesi. Buongiorno e benvenuta. Ciao Loredana. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitata. Senti Loredana, Erasmus è una parola sempre più frequente, no? Che entra nelle famiglie, che hanno figli, che stanno frequentando l'università. Effettivamente, quali opportunità si aprono ad uno studente che parte con l'Erasmus? Beh, io direi che si aprono delle opportunità che possiamo valutare in due modi diversi. Diciamo che c'è l'opportunità quindi legata proprio all'itinerario o accademico o anche scolastico, perché questa parola, come tu hai ben detto, entra sempre di più nella vita delle famiglie, perché l'Erasmus si potrà cominciare a fare sin dal liceo, nel programma comunitario che si chiama in inglese Long Life Learning Program dell'educazione degli adulti. Un episodio di mobilità è già previsto al liceo. Il penultimo anno, vero Loredana, o sbaglio? Il penultimo anno del liceo è possibile, già ora? Dal terzo al quarto anno del liceo. Sì. Prima nella gestione non istituzionale era solo il quarto anno. Adesso sì, si potrà cominciare anticipare. Addirittura dal terzo. Dicevo due punti di vista, perché è molto messo in evidenza dalla lettera che abbiamo appena sentito. Quindi l'opportunità sicuramente per una mobilità che comincia dalla scuola e che può continuare addirittura dopo l'università, sempre proprio con Erasmus, quindi con uno stage Erasmus e anche con una formazione lungo l'arco dell'apprendimento continuo, è l'opportunità della mobilità, degli obiettivi di competitività che si è data l'Europa, quindi i più bravi, più intelligenti, più mobili sono quelli che avranno quelle competenze che faranno sì che avranno dei migliori posti di lavoro. Certo, questo non è automatico, ma è un percorso che comincia. Il posto fisso sotto casa certamente non porterà a una carriera più internazionale, più di confronto anche interculturale con gli altri, quindi sicuramente ha un vantaggio nella formazione, nelle quello che si chiama education. Io uso la parola in inglese perché in tutto il mondo si dice education, educação, solo noi diciamo istruzione, ma veramente educazione. Ha un significato importante, più ampio, a 360 gradi. Esatto. L'altro aspetto che è quello personale della famiglia, e lì è un po' più delicato, perché una ragazza che è stata sempre molto riservata, giustamente quando vuole andare per 6 mesi fuori da casa, bisogna guardare con molta attenzione. Allora, sicuramente, a mio modo di vedere, è un'opportunità di crescita personale, ma che va gestita sia da parte della famiglia che da parte delle istituzioni. Alberto, è normale che i genitori si chiedano, soprattutto di fronte ad una ragazza che è sempre stata in famiglia, riuscirà a reggere un po' le fatiche emotive, come le chiami tu, quindi inserirsi in un ambiente completamente nuovo, con un'altra lingua. Quali sono le domande che un genitore dovrebbe farsi come genitori e fare al proprio figlio? Ma chiaramente un genitore parte probabilmente dal fatto che, più che in termini di opportunità, vede un'esperienza del genere in termini di sfide, a volte di veri e propri pericoli, per cui andrà in un posto sicuro, riuscirà a inserirsi, ce la farà. Se poi, come questa ragazza, è la prima volta che si parla di una vera e propria separazione dal nido familiare, certo ti si accendono di nuovo altri pensieri in più, cioè cosa sarà per lei l'esperienza della solitudine, riuscirà a trovare un buon gruppo di amici, riuscirà a inserirsi in un insieme di persone che sapranno proteggerla, sapranno farla divertire e non la metteranno invece in pericolo. Devo dire che sono tutte domande lecite, alla luce anche di una storia che è entrata un po' nell'immaginario collettivo, è stata frequentemente associata proprio alla parola Erasmus, ha ridefinito nella mente di molti genitori il concetto di generazione Erasmus, ed è la storia di Amanda Knox, la ragazza che si trova in questo momento in carcere a Perugia per l'assassinio di Meredith. Naturalmente non parleremo di Amanda, ma parleremo con l'autrice di questo libro, che è in linea già con noi, Fiorenza Sarzanini. Ciao Fiorenza. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitata. Giornalista che ha appena pubblicato per Bompiani Amanda e gli altri, di cui abbiamo letto Amanda proprio nei giorni scorsi, ha chiesto il ritiro dalle librerie. Naturalmente noi staremo assolutamente fuori dalla storia di Amanda, dal ritiro del libro, dal processo. Ci occuperemo invece dei ragazzi che scelgono di frequentare un'università all'estero, di svolgere una parte dei loro studi all'estero, dell'Erasmus, delle difficoltà, anche dei pericoli che possono incontrare. Siamo tornati insieme. Un'esperienza di studio dei nostri figli all'estero. Parliamo di Erasmus, luci e ombre. Luci insieme a Loredana Oliva. Loredana, te la senti di sostenere le luci dell'Erasmus? Sì, le luci dell'Erasmus, però ho qualcosa da dire anche sulle ombre. Quindi bene. Sono molto in linea seconda parte. Un po' di luci e anche ombre. Ombre le affidiamo a Fiorenza Sarzanini. Alberto, tu farai un po' il giudice super partes, certo, fornendo soprattutto ai nostri ascoltatori da casa dei consigli utili, come muoversi, come capire, come scendere da queste storie all'esperienza personale, come cucire un abito su misura sul proprio figlio. E allora partirei da Fiorenza Sarzanini, che per il Corriere ha seguito il caso di Amanda Knox a Perugia e, seguendo i personaggi, i protagonisti di questa vicenda, in realtà si è molto addentrata anche nel mondo degli studenti Erasmus in questa grande città universitaria. Alla fine ne è venuto fuori un quadro che a volte a noi lettori dà veramente anche un grande disagio. Perché hai sottotitolato il tuo libro Vite perdute intorno al delitto di Perugia? Perché appunto il mio libro non è sul processo, sull'inchiesta, ma proprio su i ragazzi che sono diventati protagonisti di questo caso, che certamente ha interessato proprio perché appunto l'occasione Erasmus ha messo sulla scena del delitto ragazzi che arrivano da mondi completamente diversi, che hanno avuto educazioni diverse e perdute, perché io penso che alla fine comunque andrà l'inchiesta, il processo, comunque le loro vite mi paiono comunque perdute. Ma è un microcosmo che tu senti comune in vari, anche in altre realtà in cui si muovono ragazzi Erasmus? O è stato diciamo che per esempio io ho messo nel libro il racconto di Raffaele e della sua esperienza Erasmus a Monaco di Baviera. Non mi pare molto diversa dalla vita che si faceva a Perugia. Cioè questa vita di questi ragazzi di 20 anni che bene o male hanno la possibilità di avere una casa tutta per loro, poche regole, perché diciamo che poi vivono da soli, hanno è vero non tantissimi soldi, però comunque quanto basta per mantenersi. Allora vivono molto la notte, vivono poco in realtà lo studio, l'università. Loredana, come genitori, se noi ci troviamo di fronte a un figlio che vuole partire per Erasmus, cosa dovremmo presidiare in termini proprio di attenzione educativa, di verifica prima della partenza di condizioni che possono far funzionare bene l'esperienza e soprattutto non esporre un figlio a pericoli? Io penso che bisognerebbe verificare ecco, l'istituto, l'università di accoglienza, che tipo di senso di responsabilità ha nei confronti dello studente che accoglie. Perché l'esperienza della mobilità appunto in accoglienza, cioè in entrata, è un'esperienza molto molto importante che deve coinvolgere l'università, perché io ho seguito le cronache sul Corriere e le ho trovate, a parte voglio dire mi interessava moltissimo l'argomento, ho sentito molto questo argomento, questo questa vita di questi ragazzi un po' perduta, un po' lasciata, briglie sciolte improvvisamente. Allora io se fossi un genitore in questa condizione controllerei moltissimo cosa fa quell'università, se c'è un ufficio, un'agenzia universitaria che si occupa di capire i ragazzi dove vanno a stare, sì. Se c'è un mediatore culturale, come esiste per esempio in Inghilterra, in Francia. Scusami Loredana, l'idea è questa, il genitore deve comunque informarsi, tante volte dicono ormai è grande, fa l'università, tutti fanno l'Erasmus e quindi ha gli strumenti per capire in quale struttura va a finire, quali sono i centri, i gruppi che possono proteggerlo, quali invece sono invece carenti. D'altra parte ti devo dire che anche mia figlia, che sta iniziando l'università, proprio in questi giorni diceva farò un'esperienza Erasmus, e devo dire a Fiorenza che io come genitore non mi immagino un Sodoma e Gomorra come è capitato a Perugia, cioè io la vedo come un'opportunità che magari dai tempi della mia generazione non era così diffusa. Poi guardo anche in faccia mia figlia e non penso che poi un ragazzo che ha sempre condotto una vita, no? Assolutamente regolare, poi all'estero diventi assolutamente tutt'altro, o sbaglio? No. Io non ho, appunto, non c'è nessun intento, ma perché poi veramente non lo penso, di criminalizzare Erasmus. Io sono convinta che Erasmus sia una grande, grandissima opportunità per i ragazzi. Però tutto quello di cui sento parlare adesso, io appunto ho studiato molto il caso di Perugia, naturalmente, non esiste. Cioè i ragazzi a Perugia arrivano e si cercano casa, non ci sono dormitori, non ci sono posti dove l'università li fa stare. I ragazzi affittano degli appartamenti in 4, 5, 10 a seconda della grandezza delle case, sì. E poi sono indipendenti per quanto riguarda il rapporto con l'università. Alberto. Sì, posso parlare un po' magari anche da docente universitario, quale sono io. Devo dire che ho avuto nella mia esperienza proprio di docente studenti Erasmus e Posso affermare che probabilmente appartengono proprio a due categorie diverse. Alla fine, forse, l'ambiente in cui si trovano poi a vivere quando raggiungono la loro sede Erasmus e il contesto che andranno a frequentare dipende dalle motivazioni con cui sono partiti. Ci sono degli studenti che davvero partono per Erasmus vedendolo come una straordinaria opportunità di crescita all'interno del loro curriculum di studi e una grossa spinta in avanti probabilmente per i loro sogni professionali, e sono effettivamente studenti poi molto motivati, molto coinvolti nel curriculum di studi che trovano nell'università che li va a ospitare. Fanno di questa esperienza un vero e proprio tesoro da moltiplicare, un capitale che in qualche modo, proprio perché a breve termine, dopo sei mesi è finito, deve essere valorizzato al massimo. C'è probabilmente un altro gruppo di studenti che invece sogna l'Erasmus per tutt'altri motivi, come molto più come esperienza di vita, di libertà, di sregolatezza, invece che come esperienza di studio. Probabilmente è proprio con queste fantasie che parte da casa sua per raggiungere l'altra nazione. Secondo me un genitore se ne può rendere conto. Come? Quali sono le cose di cui si sta preoccupando nel momento in cui si muove verso la futura sede della universitaria dove trascorrerà Erasmus? È molto attento alle materie che andrà a scegliere, al piano di studi, a cercare un istituto, un dipartimento dove potrà approfondire i temi che vorrebbe magari mettere al centro della propria tesi di laurea, oppure sta pensando a tutt'altro, sta cioè cercando quali sono i locali per la sua vita notturna e tutto il resto. E credo che queste caratteristiche sono già in qualche modo un po' visibili in partenza. Credo poi che uno studente che ha un ottimo curriculum di studi e che parte per l'Erasmus probabilmente là non va a rovinarsi il suo curriculum di studi, ma andrà a migliorarlo. Chi invece è già ballonzolante in partenza forse là faticherà a ritrovarsi e sarà più a rischio di perdersi. Loredana, vuoi aggiungere qualche indicazione per i genitori in ascolto a quelle che ha così puntualizzato Alberto, per delle scelte serene, per poter accompagnare i ragazzi? Io penso che nella maggior parte dei casi i ragazzi che decidono di fare questa esperienza, ci auguriamo, anche perché li abbiamo allevati, accompagnati fino all'università, scelgano proprio affinché questa sia un'esperienza costruttiva per il loro futuro. Come possiamo aiutarli? Tu hai sottolineato l'importanza di capire esattamente dove vanno a finire, come sono organizzate le università, quindi non lasciare al caso all'improvvisazione. Certamente, ma diciamo far nascere in loro questa consapevolezza, cioè la consapevolezza che vanno per fare un percorso sicuramente migliorativo della loro vita. Allora mi riallaccio a quello che ha detto Alberto. Per fortuna per andare a fare un Erasmus, visto che le opportunità di avere una borsa di studio non sono moltissime in Italia come anche in altri paesi europei, è necessario un buon curriculum vitae, questo voglio dire studiorum. Questo screma, salva un po'. Dopodiché la consapevolezza è che quando si va fuori in un'università, forse questo bisognerebbe proprio farglielo capire sin dai primi anni, sin da quando proprio si comincia con le scuole medie quasi. L'università non è un luogo appunto così, è un luogo dove si fanno esperienze umane, di amicizie, di divertimento, ma è una comunità, esiste un concetto di cittadinanza universitaria. Volevo chiedere a Fiorenza se tuo figlio, tu che hai visto il lato buio, il lato oscuro di una situazione nata proprio con, forse per combinazione con ragazzi che frequentavano l'Erasmus, cosa le diresti? La lasceresti partire tranquilla o prenderesti in modo scrupoloso tutte le informazioni del caso? No, è molto interessante quello che dice Loredana, la lascerei partire certamente, perché ripeto, io penso che Erasmus sia una grande esperienza, un grande arricchimento, ma seguendo alla lettera i consigli di Loredana, quindi farei partire mia figlia semmai facendola dormire in un campus dove so che c'è un'università che tiene sotto controllo. Insomma, non all'avventura. Esatto. Intanto, per saperne di più, vi ricordo i due titoli dei libri di cui abbiamo in pratica parlato oggi, da cui abbiamo preso spunto per affrontare il tema, no? Da destra e da sinistra. Io invece studio all'estero, dal liceo al master, le città, le università e i paesi, di Loredana Oliva, ricco di informazioni interessanti, utili per dare modo a noi genitori di muoverci con le dovute competenze. Il libro invece da cui noi abbiamo parlato un po' di questa situazione molto molto seria è quello di Fiorenza Sarzanini, Amanda e gli altri, vite perdute intorno al delitto di Perugia. Allora un saluto a Loredana e un saluto a Fiorenza, grazie per essere state con noi. Grazie a voi. Ed ora Alberto, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa il libro dal titolo Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per genitori, educatori e ragazzi. Per riceverlo a casa dovete essere il primo ascoltatore a raggiungere il nostro indirizzo di posta elettronica essere benessere@radio24.it. dovete mettere il titolo, i numeri di telefono e il vostro recapito. Eccoci Alberto, siamo tornati, come abbiamo anticipato prima della pausa, torniamo in onda affrontando un nuovo tema. Parliamo di bullismo e lo facciamo con tanti ospiti. Io vorrei presentare Filippo, 16 anni, Filippo B., autore di un libro intitolato Bully, il romanzo shock di un adolescente pubblicato da Mursi Editore. Ciao Filippo. Ciao. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ci aiuterà anche in questo percorso che facciamo insieme Andrea Cotti. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a tutti. È uno scrittore di grande fama che ha scritto il libro Un gioco da ragazzi, da cui proprio è stato tratto un film che ha fatto molto discutere, che racconta le dinamiche, molte delle quali hanno a che fare col bullismo, questa volta all'interno di un gruppo di ragazze della scuola superiore. È così, vero? Esatto, sì. E abbiamo però anche un'altra ospite che torna a trovarci, anche lei quindi in versione 2009, la dottoressa Elena Buccogliero, sociologa, autrice di molti libri su questo tema e blogger per il suo giornale locale La Nuova Ferrara, proprio sul tema bullismo e dintorni. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie. Allora, oggi abbiamo davvero la possibilità di entrare dentro a una storia vera, così come è stata raccontata dal suo protagonista Filippo, che è un adolescente ed è in linea con noi. Direi che invece di usare il classico stile, una lettera di un genitore che ci racconta un problema, usiamo proprio le parole di Filippo. Vogliamo farvi vogliamo cominciare questa trasmissione con un breve estratto dal suo libro Bully, romanzo shock di un adolescente. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Riposo. Questo è quello che mi merito dopo che ho iniziato la scuola e dopo che ho ricevuto così tante minacce e così tante offese da parte di quei 5 ragazzi. Che pizza! Ho paura di ritornare a scuola perché ho paura di essere umiliato di nuovo. E forse anche picchiato. Perché non mi lasciano in pace? Dovrò cominciare a nascondermi da tutti e soprattutto da loro. Mi immagino che soprattutto Giustiniano mi insulterà, visto che lui si ritiene un ragazzo forte e coraggioso. Non ho raccontato nulla a mia madre. Non voglio proprio fare come ho sempre fatto anche quando mi davano fastidio alle scuole medie. Voglio che lei non sappia niente di me, perché la mia vita è solo mia e di nessun altro. Ho navigato in internet e ho letto di qualche caso di bullismo. Un ragazzo è stato addirittura menato nel bagno e ha battuto la testa contro il lavandino. Poi è andato in ospedale. Questo solo perché non dava i compiti in classe ai suoi compagni. Filippo, allora io vorrei approfittare di te perché tu possa in qualche modo raccontarci la tua storia. Io credo che sia importante sentirla proprio descritta dal protagonista, anche naturalmente se poi nel libro tu la racconti, prendi anche altri spunti da storie o da che cosa ti hanno raccontato i tuoi compagni. Ma in questo mix tra cose che hai vissuto tu e cose che hai scritto nel libro, che cosa ti è successo? Quando hai iniziato e come hai reagito all'inizio? Allora, tutto è iniziato alla scuola media. Negli anni a seguire, fino anche arrivare in primo superiore, dove ho subito ho sentito proprio dentro di me il cambiamento tra la scuola media e la scuola superiore. Le cose si sono fatte molto più pesanti alla scuola superiore. Alla scuola superiore sì, rispetto alla scuola media sì. Una domanda molto veloce ad Andrea Cotti. Elena Floris invece nel suo romanzo sembra l'esatto contrario, e anche nel film è apparentemente una ragazza potentissima, ha in mano completamente il suo gruppo di amiche. Qual è la psicologia di questa protagonista? In un vuoto che ha attorno si trova a riempire quel vuoto esercitando un potere. Di conseguenza, quando uno ha un potere assoluto come lei si trova ad avere, quel potere diventa anche violento Elena Flores, o Elena Chiantini del film, non ha limiti. Non avendo limiti, si sente di poter fare qualunque cosa. Ci sono due profili assolutamente differenti, Alberto. Il racconto di Filippo nel suo libro Bulli parla di ragazzi che in qualche modo agiscono in modo molto potente, anche molto fisico, bullismo su un altro ragazzo. Nel libro Un gioco da ragazze invece c'è un potere psicologico incredibile. Tutto viene giocato attraverso la psicologia e il controllo e la manipolazione delle amiche. Allora io vorrei chiedere alla dottoressa Buccogliero di farci un po' dei tratti differenziali che connotano il bullismo al maschile rispetto a quello al femminile. Sappiamo che uomini e donne sono diversi, anche le ragazze e i ragazzi, nel loro modo di porsi, nel loro modo di affrontare le situazioni. Sono due mondi a volte molto lontani. I maschi, come no, tante volte vengono definiti, sono molto più fisici. Le ragazze, anche delle loro coetanee, sono molto più cerebrali, molto più sottili. Dottoressa Buccogliero. In generale si tende a credere che le prevaricazioni maschili appunto siano molto più fisiche e molto più psicologiche e indirette a quelle delle ragazze, e poi per entrambi i sessi c'è il bullismo verbale, che è comunque quello più diffuso. Certo. Assistiamo a dei cambiamenti molto veloci anche in questo, cioè le ragazze stanno sempre più impadronendosi di una modalità di relazione che è anche di aggressività fisica e che tradizionalmente maschile, diciamo. E poi si potrebbe per esempio aggiungere che il bullismo maschile è più spesso legato ad avere dei vantaggi. Per esempio, le estorsioni sono più spesso maschili. Mm. Il bullismo femminile è più spesso fatto invece di manipolazione per avere un successo relazionale. Naturalmente queste non sono distinzioni assolute, ma direi che come linea di tendenza potremmo dire anche così. Il problema è che il ragazzo che è vittima di bullismo spesso prima di chiedere aiuto ci mette un po' di tempo, Alberto, e in questo lasso di tempo ne manda giù. È proprio così, e quello succede tutto all'interno del gruppo dei pari, e sembra apparentemente che gli adulti non sappiano e non vedano niente. Gli adulti rimangono sullo sfondo, apparentemente non fanno nulla, ma in realtà hanno delle responsabilità. C'è un vuoto relazionale ed emotivo potentissimo tra i personaggi della tua storia, Andrea. Che genere di corresponsabilità ti senti di dare al mondo degli adulti rispetto a ciò che succede invece all'interno di un gruppo di ragazzi? Mi sono ritrovato a credere che gli adulti siano in effetti pesantemente assenti. Sia nel romanzo che nel film vengono raffigurate famiglie in cui gli adulti si autoguardano, pensano solo a se stessi. Gli adulti si guardano, parlano tra di loro, non se ne accorgono. Andrea Cotti, ho riassunto, ho perso qualche dettaglio che fa la differenza. Allora io dicevo, vabbè, speriamo non tutti così. La tua esperienza da ragazzo, che quindi guardino gli adulti con degli altri occhi. È vero? Siamo così una frana? Per quanto riguarda la mia storia, gli adulti li ho sempre visti abbastanza assenti, perché non capiscono bene noi giovani. Loro pensano che hanno già, parlo per i genitori, hanno già un disegno di vita per i propri figli. E non si accorgono che invece i loro figli hanno un problema. Veri problemi. Tu, Filippo, che messaggi mandavi quando soffrivi perché vittima di bullismo? Allora mi chiudevo in camera, sentivo l'MP3, la musica tutta palla, quindi mi staccavo anche dalla mia famiglia, rispondevo male. Quindi in qualche modo manifestavi, come direbbe Alberto Pellai, il tuo disagio. Alberto. Sì, direi che è frequentemente così. Per chi sta crescendo, e questo lo diciamo proprio i nostri genitori all'ascolto, è molto molto frequente che nella loro testa ci siano molti più pensieri e molte più emozioni che parole per saperle e quindi per poterle raccontare. Quindi il lavoro che poi deve fare un genitore, spesso anche il lavoro che deve fare un docente, è proprio quello di un piccolo Sherlock Holmes, cioè tu dovresti avere in mano la tua lente di ingrandimento e da un piccolo particolare che tuo figlio ti mette a disposizione provare a ricostruire l'intera trama e l'intera storia. Elena Buccogliero in questo senso ci potrebbe aiutare, perché cosa serve in una scuola per da una parte smascherare una brutta storia di bullismo che nasce e cresce al suo interno, e d'altra parte, direi poi la cosa che ci interessa di più, per prevenire una storia di bullismo, cosa devono fare gli adulti, cosa devono fare i ragazzi? Io credo che per prevenire delle brutte storie di bullismo vadano fatte forse un paio di cose. Da una parte, sforzarsi di costruire nel tempo un dialogo il più possibile vero tra le persone. E tra le persone voglio dire i docenti tra loro, i docenti con i ragazzi e anche con i genitori. E questa è un'attenzione che anche i genitori devono avere naturalmente per la loro parte e che non può cominciare quando i figli sono adolescenti. La seconda cosa importante da fare, io credo, per prevenire le prepotenze è quella di lavorare consapevolmente nelle classi, sapendo di avere davanti un insieme di ragazzi che avranno delle dinamiche, che saranno delle dinamiche di gruppo, e quindi lavorare consapevolmente con i ragazzi perché si costruiscano dei gruppi dove è possibile lavorare bene insieme, dove le persone si rispettano per quello che sono, con le loro diversità, e dove è possibile affrontare i problemi nel momento in cui sorgono. Quando nelle scuole, nelle classi si riesce a lavorare così, io vedo che il bullismo non c'è, ci possono essere naturalmente dei conflitti come in tutte le relazioni, ma non diventano delle situazioni di prepotenza schiaccianti per qualcuno. Allora, su un po' sugli stessi canali occorre, io credo, lavorare quando il bullismo c'è già, perché non si è riuscito, non si è potuto per mille motivi fare prevenzione bene. E allora bisogna rincorrere, quindi vuol dire bisogna osservare molto bene, bisogna drizzare le antenne, bisogna soprattutto nelle scuole aprire degli spazi, quindi avere anche delle competenze per aprire degli spazi, perché le relazioni diventino un argomento interessante di cui nella scuola ci si può occupare. Allora, il nostro tempo a disposizione è terminato. Ringraziamo gli amici che ci hanno aiutato, i nostri esperti di oggi. Filippo, grazie. Grazie a voi. Andrea Cotti. Grazie a voi e un saluto a Filippo. Un saluto a Filippo allora da parte di Andrea Cotti. Salutiamo anche però Elena Buccogliero, sociologa, che ci ha aiutato a inquadrare un po' il fenomeno. Grazie. Alberto, prima di salutarci, invitiamo allora i nostri ascoltatori a intervenire, a raccontarci le loro storie in diretta, a diventare protagonisti, raccontando magari la loro storia personale, quella del loro figlio o una storia di cui sono venuti a conoscenza. E la puntata di sabato prossimo è completamente dedicata a questo tema. Saremo in diretta con voi, con le vostre esperienze. Mandateci una mail a essereebenessere@radio24.it. Allora Alberto, per ora è tutto, ci mettiamo subito al lavoro per il prossimo sabato, intanto vi aspettiamo. Buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.